Atlantide. André si era addormentato con il ticchettio ritmato della pioggia, che risuonava sui vetri della piccola finestrella sopra la sua testa, che dava sulla strada. Si trovava alla periferia di Parigi nello scat dove abitava Alan. Uno dei più oltranzisti, integralisti, nichilisti dei complottisti che si potessero incontrare. Era contro tutto, contro tutti, non credeva in niente, a niente, a nessuno. Era un genio della cibernetica, era un hacker. Malgrado questo piglio così rigido e poco incline al dialogo aveva verso André una flessibilità e un affetto che sorprendeva anche lui. Alan fu la prima persona a cui André iniziò a confidare la parte più segreta della sua esistenza. Da sempre la vita di André fu caratterizzata dalla presenza di sogni misteriosi, a volte vividi e realistici, che lo proiettavano in una vita parallela a cui lui dava molta importanza. Pioveva da giorni. André era stato sorpreso dal temporale improvviso e violento. Per ripararsi si era rifugiato in un fienile, forse abbandonato. Se ne stava rannicchiato sul fieno umido, sperando di trovare un po' di tepore. Ma tutta quella pioggia portava solo freddo e malessere. André era in un'altra epoca, forse neanche era lui. La via si chinò sussurrandogli. Stiamo andando via. André aprì gli occhi sobbalzando. Fu invaso da un senso di smarrimento, di puro terrore. Come una visione. Un sogno nel sogno. Vide delle piattaforme. Come isole. Come astronavi. Sganciarsi dal fondo del mare. Partire all'unisono verso il cielo. Abbandonare il pianeta Terra. La grande massa d'acqua spostata dall'urto della partenza provocò colossali onde di tsunami che ricoprirono le coste. Poi la pioggia, che non terminava mai. Andrea era ancora in un'altra epoca, anche questa volta, forse neanche era lui. Vestito con una casacca ruvida, calzari di legno, una borsa e una borraccia. Stava tornando dal suo lavoro nei campi. Camminava da solo. Poi alla sua sinistra. Tre piramidi. Maestose, solitarie, mute, abbandonate, dimenticate. André raccontò questo suo sogno ad Alan, durante il tragitto per raggiungere la brasserie dove fare colazione. Camminavano sotto la pioggia coperti solo dai cappucci delle loro giacche. Da quello che racconti Atlantide sembra un concetto più che un continente, disse Alan. André era silenzioso, con lo sguardo basso, molto pensieroso. Se credi che i tuoi sogni siano davvero messaggi, continuò Alan, tu cosa devi farne? È questo che non capisco, rispose André. Scusa, ma, mormorò sommessamente Alan, non te l'ho mai chiesto. Ma Silvia c'è in questi sogni? Domanda per nulla disinteressata, Alan non aveva alcuna simpatia per Silvia. A dirla tutta non la sopportava proprio, carina, a suo modo anche simpatica, ma troppo chic, troppo trendy. Sempre così cool, con suoi tacchi sciunchi. Così borghese. Cosa c'entrava con André? Silvia era la sintesi del tipo di persone che Alan più detestava. Mai, rispose secco André, mai, mai neppure una volta, Silvia non c'è mai. Ci sono altre persone, mai viste e conosciute, tutte dello stesso tipo, sono molto alti, hanno l'aspetto umano, ma non sono esseri umani, sempre così calmi, così centrati, sempre sicuri, autorevoli. Parlava di noi,